Il prossimo 7 maggio uscirà Reset, nuovo album dei Bacchi da Pietra, che però è già stato anticipato da due singoli. Comincia adesso, uscito nel marzo scorso, e Meriterete, che è uscita la settimana scorsa. Noi siamo al telefono con Giovanni Succi, che saluto, buongiorno. Ciao a tutti. Un nuovo album dopo un po' di tempo, e appunto con due singoli già usciti. Reset si intitola, c'è qualcosa di autobiografico in mezzo? Beh, c'è sempre qualcosa di autobiografico sicuramente in tutto quello che si fa, quindi sì, cioè, in effetti pensavamo di farlo uscire prima, poi è successo sto patatrac che tutti sappiamo, quindi non ci siamo riusciti, cioè è arrivato proprio mentre eravamo sul finire, insomma. Effettivamente manchiamo dalle scene dal 2016, parlando di concerti dal vivo, e mi rendo conto che in termini odierni è un sacco di tempo, però insomma a noi non è sembrato, anche perché nel frattempo sia io che Bruno Dorella abbiamo fatto un sacco di altre cose, io e i miei progetti solisti, lui, gli Ovo, i Ronin e altro, e quindi eccoci qua, i Bacchi da Pietra freschi freschi. Sì, infatti stavo per dirtelo anche io, insomma non vi siete di certo annoiati, avete partecipato a tante formazioni anche solisti, perché riprendere tra virgolette in mano i Bacchi da Pietra? Bah, perché la scrittura che mi coinvolge in prima persona dei pezzi dei Bacchi da Pietra è una cosa che prosegue sempre, nel senso che non ha proprio soluzione di continuità. Ci sono determinati pezzi che scrivo che non possono che essere Bacchi da Pietra, e determinati altri che invece mi rendo conto che è meglio destinare, per esempio, al mio progetto solista. Ma per quanto riguarda i Bacchi, insomma, la sorgente è sempre sgorga e quindi la si prende. Così è. E poi c'è anche la novità che è questa apertura del duo a trio, perché siamo diventati un trio nel frattempo, non so se hai notato. Stavo proprio per chiederti questo, dell'arrivo di Marcello. Sì, grande acquisto, grande arrivo, e ne siamo felicissimi. Del resto, dal 2005 all'altro ieri, duo sia dal vivo, lo ricordo sempre che sui dischi abbiamo sempre usato i nostri due strumenti senza aggiungere mai altri strumenti, quindi in fai 15 anni e tanti dischi, quello che si poteva dire con due strumenti ci sembrava di averlo esaurito in un certo senso, quindi la questione era o ripetere quello che avevamo già fatto oppure andare oltre, e noi scegliamo sempre andare oltre. Sia, insomma, per quello che abbiamo potuto sentire fino adesso, cioè con i due singoli, entrambi, diciamo, contengono sia una critica che però anche molta ironia. Come li descriveresti se dovessi appunto raccontarli a chi non li ha ancora sentiti? Più che una critica è uno specchio, nel senso che non è una critica, cioè per esempio Meriterete parla all'italiano della porta accanto, che è quello che spera in tutta una serie di cose, almeno a sentire quello che dice, non è che sembrerebbe così, e allora magari si meriterebbe che queste cose gli arrivassero davvero, e poi sarebbe interessante vedere se va veramente tutto bene, ecco, questo è lo spirito della canzone, è quello. Diversamente, per Comincia Adesso, è il mio praticamente il mio stato esistenziale permanente, cioè la sensazione che nonostante tutto quello che hai fatto, seminato e raccolto, è arrivata la tempesta, nel senso l'uragano, qualche cosa, o la vita, e quindi ti tocca ricominciare da capo, da zero. Ci puoi dire se, come dire, queste riflessioni le troviamo anche negli altri brani che appunto comporranno Reset? Beh sì, ce n'è un po' per tutti i gusti, quindi invito particolarmente i vecchi fan a riapprocciarsi consci, come si suol dire, del percorso già fatto, e sicuramente troveranno del buon pane per i loro denti. E allo stesso modo anche chi non ci ha mai ascoltati, mi piacerebbe che magari, visto che si parla di nuovo di rock italiano, buttasse un orecchio anche su quello che abbiamo da sfarinare noi in termini di pietre spaccate a suon di mandibole. Ecco, ma a proposito di rock italiano, che insomma sembra, almeno come dire, nei circuiti ufficiali, sempre essere messo un po' più da parte, sentite la responsabilità di essere l'isola di salvataggio di chi ancora cerca questo genere? Ma no, noi responsabilità non ne sentiamo, perché abbiamo sempre fatto il nostro, e a prescindere da qualsiasi situazione contingente, quindi non sentiamo nessuna responsabilità. Però l'invito c'è, se avete voglia di assaggiare il rock nel 2021, prego, è aperto. Pian pianino, dopo appunto questo anno e mezzo di delirio, ritorna anche la musica dal vivo. Avete già, come dire, iniziato a capire se ci sarà spazio per live, concerti? Guarda, lo spero tantissimo e sembra che, non voglio dirlo troppo forte né troppo presto, per carità, e toccando ferro, quindi sembra che qualcosa timidamente cominci a muoversi. E comunque sia, noi siamo qui, pensiamo che insomma chi ha questa passione prima o poi avrà voglia di esercitarla, proprio incarnandola di nuovo in carne ed ossa, e quindi quando tornerà questa cosa noi saremo lì, o almeno spero, poi di certo non si può mai dire niente. Comunque sì, spero proprio che avremo modo di esprimerci dal vivo, dal momento che noi comunque siamo sempre stati una live band che però ama anche registrare i dischi in studio in un certo modo. Insomma, diciamo che le perversioni ce le abbiamo tutte, ecco, mettiamola giù. Senti Giovanni, ti faccio un'ultima domanda, proprio relativo appunto al periodo che stiamo ancora vivendo, da cui stiamo lentamente uscendo. Tu dicevi prima, l'album in realtà era già pronto l'anno scorso e quindi avete dovuto aspettare. Come avete vissuto questo anno delirante di zero concerti, zero musica dal vivo? Ma guarda, io mi sono subito, diciamo che dopo un mesetto di divano e di serie TV mi è venuta in mente che forse c'era una vita che continuava ad andare avanti, e mi sono dato da fare, mi sono inventato una cosa su una piattaforma che esiste, si può usare, si chiama Patreon, che permette a sostanzialmente a chi ha stima di un artista o di qualcuno che propone dei contenuti, di abbonarsi, come se tu diventassi Netflix di te stesso. Ecco, io ho aperto il mio Netflix personale su patreon.com/Giovanni Succi e ho continuato a fare quello che avrei dovuto fare dal vivo, cioè ho continuato a leggere, a produrre musica, ho continuato a fare appunto reading, a interessarmi di letteratura, letteratura underground, meno underground, e coinvolgendo anche tutte le persone che entravano in questa specie di locale virtuale. Ed è bello perché ne è nato un vero proprio collettivo, cioè adesso in questo momento ci sono tante persone che partecipano ai progetti, per cui qualcuno manda un racconto, un altro lo legge, di solito io, e qualcun altro lo musica, qualcun altro ci produce una graphic novel, quindi dei fumetti, delle grafiche, ed è veramente da una situazione, se vogliamo, triste, è nato qualcosa di comunque stimolante, ecco, e che mi ha permesso anche di pagare qualche bolletta, grazie alle persone che ci hanno creduto e che continuano a crederci. Certo, l'ingegno e la creatività possono andare di pari passo. E allora, in attesa dell'uscita di Reset, comunque il 7 maggio è qua dietro l'angolo, quindi non dobbiamo aspettare molto. Sì. Arriva. E io, Giovanni, ti ringrazio. Sono io che ringrazio tutti voi. E andiamo ad ascoltarci Meriterete. Grazie mille. A te e a tutti voi. Meriterete. Ciao. Ciao.